Nel 1993 il regista australiano Philip Noyce diresse Sliver. Il film era interpretato da William Baldwin, da Sharon Stone, Tom Berenger, ruotava intorno ad un condominio e dal suo giovane padrone che, spendendo un patrimonio, aveva realizzato un perfetto sistema di spionaggio sulla vita domestica degli ignari condomini. Baldwin si passava le sue giornate in una sorta di enorme cabina di controllo, un controllo tele e audiovisivo, no? Dove poteva guardare cosa avveniva e cosa si diceva negli ascensori, sulle scale, nel tinello del ragioniere del quinto piano, nel salotto del noto scrittore, nelle litigate in famiglia all'ultimo piano, al capezzale del malato o nella vasca da bagno della biondina misteriosa che gli piaceva tanto. Quando scoprirà l'amore, dopo aver rischiato la morte per mano di un misterioso assassino, scoprirà altresì che tutto il suo raffinatissimo impianto non solo è inutile perché non ha evitato alle vittime designate di venire ammazzate, ma è anche un peso morale insopportabile dalle sue fragili spalle. La responsabilità di sapere implica la responsabilità di fare, e la scelta di quando fare o quando non fare non può dipendere dall'umore o dal sghiribizzo del momento. Ne va della vita altrui. E lì, per intervenire, il criterio minimo che si richiede, il criterio minimo fra comuni mortali, è che anche l'altro condivida o almeno possa condividere l'intervento. Parlando di Italo antico, non ci si inoltra nelle ponderose pagine di un trattato di paleografia, ma con maggior senso dell'attualità, nonostante l'associazione del nome e del cognome, si individua il preside del liceo artistico statale Boccioni, sito in Milano. È quel preside che, dopo aver negato l'evidenza di telecamere interne al liceo, dopo aver declinato ogni eventuale responsabilità in merito, dopo averle fatte sparire rapidamente, ha ammesso seraficamente di averle fatte installare, sì, ma con l'intenzione di farle disinstallare, il che sinceramente non suona come la dimostrazione di indubbie e brillanti capacità gestionali. Vabbè. Ha detto una cosa, poi ha detto il suo contrario. Si contraddice, ma ne sembra lieto, come se la cosa non contasse poi un granché, forse perché sa che per lui telecamere spie, poi per lui non ce ne sono. Le camere sono per le malefatte dei soli che a quanto pare sono considerabili possibili autori di malefatte, cioè gli studenti. Si contraddicono anche l'ordine dei medici e tutti i suoi noti luminari. Quando sono forti, l'abbiamo visto, la somatostatina è acqua fresca e i medici che ne chiedono la somministrazione andrebbero denunciati all'autorità giudiziaria. Quando sono deboli, la sperimentazione si può fare e anzi, la memoria sovviene che la somatostatina in qualche caso è già somministrata. Sul fatto che Di Bella esercitasse da più di 20 anni, che le sue teorie fossero notissime e che i suoi studi fossero pubblicati, si preferisce tacere. Nessuno legge alcunché e l'ignoranza in certi ambienti è considerata una virtù suprema perché non modifica in alcun modo i rapporti di forze e gli interessi in gioco. Che la vicenda vada considerata in termini di contrattazione sociale e quindi in tutta la sua valenza ideologica prima che tecnoscientifica, direi che è ancora una volta evidente. La storia della medicina non è poi diversa dalla storia di tutto il resto. Chi nutrisse dubbi vada a leggersi il bellissimo libro che Ludwig Fleck, un medico deportato ad Auschwitz e da Buchenwald, ha dedicato alla storia della sifilide e a ciò che ne consegue per la natura della scienza in genere e della medicina in particolare. Si intitola Genesi e sviluppo di un fatto scientifico. Lo ha scritto nel 1935, l'ha pubblicato in Svizzera, è rimasto lettera morta e sepolta a lungo ed è stato pubblicato dal Mulino in Italia nel 1983. Si contraddicono i presidi, vabbè, si contraddicono i medici e non aspettano una trentina d'anni per farlo, come quelli che oggi si accorgono nei dibattiti televisivi che ciò che spacciavano un tempo, che so, per socialismo non era altro che capitalismo di Stato. No, questi lo fanno subito. Ciò che fa impressione è proprio l'accorciamento temporale di un processo che da sempre ha contraddistinto l'autorità basata sul potere e su nient'altro. Sono cambiate le regole narrative, non si invocano più le condizioni mutate, il cambio di prospettiva nell'analisi o le situazioni più mature per una verità che più che negata o rifiutata sarebbe semplicemente diversa. È subentrata la convinzione che lo strafogamento nell'informazione, nel pacco dei giornali, nella spasmodica frequenza dei telegiornali, nell'estenuante cicaleccio dei dibattiti televisivi, che tutto ciò finisca con l'investire la persona che si contraddice del dono dell'impunità. Funziona talmente bene questa rilegittimazione sociale accelerata che, superando in tromba gli antichi morsi e rimorsi della coscienza e domando i nobili crampi della dignità, la persona non ne soffre nemmeno più. Anzi, si può dire che maggiore è la sua autorità e meno ne soffre.